allora possiamo possiamo la signora De Pascale, Carla De Pascale, che è ricercatrice alla Scuola Normale di Pisa, sovranità e ceti in Friedrichsthal. Ho dimenticato anche il tuo nome. Vabbè, lo stesso. E poi non è Pisa, ma Firenze, ma vabbè, lo stesso. Ah, non sei a Pisa? Come? Non è a Pisa? Non è ancora. Firenze. Prego. Allora, chi si accinga ad esporre alcune linee della riflessione condotta da Friedrichsthal nei suoi saggi politici... Lentamente, per favore, perché sennò... Sì, ma fra un minuto l'ha letto. È solo un problema di partenza. Si trova di fronte al non semplice problema di restituire i principali concetti e nodi teorici che da quella riflessione emergono in un ordine dotato di un'interna coerenza logica. Ordine non facile rinvenirsi, perché la riflessione staliana, pur non lentamente e anche un pochino più forte, sennò non ti possono sentire. Tu guarda me, guarda che bella guarda che c'ho. Ogni tanto mi guardi e ti interrompo. Ordine non facile a rinvenirsi, perché la riflessione staliana, pur non contenendo particolari asperità teoriche, è affollata da una grande quantità di nozioni. Anzi, si potrebbe dire che gran parte delle nozioni del pensiero politico contemporaneo e dei temi agitati nel dibattito politico del tempo compaiono in essa. E come ovvio, essi compaiono con significati talora peculiari, hanno cioè una valenza parzialmente propria, che deriva dall'incontro fra le problematiche dibattute appunto nel periodo e la riflessione autonomamente condotta da Stahl. Come esempio, credo, si può citare proprio uno dei concetti centrali nel pensiero di Stahl, il concetto di principio monarchico. Il problema suddetto si presenta tanto più in un'occasione come quella del seminario che si sta svolgendo per la necessità di contrarre il discorso staliano e di concentrare l'esposizione su alcuni nodi teorici. Da questa messa a fuoco dovrebbero scaturire i nodi interpretativi corrispondenti sui quali ritengo utile si possa aprire un dibattito. Aggiungo che l'esposizione tralascerà quasi del tutto di occuparsi dell'opera staliana dedicata alla filosofia del diritto e sarà invece incentrata su alcuni scritti minori relativi agli anni 45-49. 1845 è la data della prima redazione del saggio sul principio monarchico. Ancora più lentamente, altrimenti si tratta... io così veloce tedesco. Si tratta di saggi, articoli di giornali o riviste o interventi tenuti da Stahl nella sua veste di deputato alla prima Camera prussiana. Saggi e interventi che testimoniano dell'ampia attività politica svolta da Stahl in Prussia, dove si era trasferito provenendo dalla Baviera, sua terra d'origine, nel 40, e dove aveva ben presto guadagnato una ragguardevole influenza sulla corte di Federico Guglielmo IV. Nel periodo immediatamente successivo alla rivoluzione di marzo, Stahl aveva fatto parte di quella sorta di consiglio segreto del re che fu la Camariglia, la quale preparava una nuova restaurazione anche grazie al coinvolgimento dell'opinione pubblica cui si rivolgeva dalle colonne della Neue Preußische Zeitung. Il suo ruolo di guida spirituale del Partito Conservatore ricevette infine, dopo la sconfitta della rivoluzione, il crisma dell'ufficialità, ricoprendo Stahl la carica di deputato alla Prima Camera e diventando punto di riferimento politico, oltre che teorico, del gruppo conservatore. Sulla base anche di quanto detto poc'anzi, mi pare fruttuoso avviare l'indagine sugli scritti di Stahl cercando di istituire un collegamento con alcune fra le questioni significative sulle quali si era interrogata la teoria politica del tempo. In un luogo del saggio del 45 sul principio monarchico, Stahl individuava nella spinta verso il passaggio dal particolarismo cetuale all'unità nazionale, dal carattere patrimoniale della Verfassung al carattere statale, ovvero costituzionale, costituzionelle, dice il testo, di essa, l'impulso più profondo del proprio tempo. Due sono i dati che emergono dal passo citato, ed essi sono destinati ad intrecciarsi continuamente nella riflessione di Stahl. Il primo riguarda il rapporto fra istanze cetuali, il particolarismo suddetto, e, diciamo per ora in prima approssimazione, l'intero. Il secondo fa riferimento all'unitarietà della compagine statale espressa da una Verfassung appunto unitaria, capace di rispecchiare la struttura sociale di uno Stato considerato nella sua interezza e globalità, e rappresentativa di tutte le componenti di uno Stato, o almeno di molte delle sue componenti. In questo caso risultava palesemente superata la visione patrimonialistica dello Stato considerato come proprietà personale, bene privato del sovrano, e che si può considerare una sorta di corrispettivo del particolarismo di cui si è detto, e veniva a farsi strada una concezione di tipo giuspubblicistico. A ben vedere poi a questi due elementi se ne aggiungeva un terzo, legato ai primi due da un nesso molto forte, il problema cioè della Verfassung Deutschlands, come questione che riproponeva in forma mutata i due aspetti ora detti, quello del rapporto fra particolare e intero e quello del tipo di costituzione atta a regolare tale rapporto. Analizzando dall'angolo visuale della storia costituzionale la stretta interrelazione esistente fra gli elementi ora individuati, ci troviamo di fronte ad un tipo di evoluzione storica, per inciso va detto che di questa evoluzione a noi interessano qui soltanto le linee di fondo assolutamente essenziali per cercare di comprendere il rapporto che connette alcune loro risultanze con il pensiero staliano, dicevo un tipo di evoluzione storica che potremmo tratteggiare nei termini di una radicale trasformazione avvenuta nel corso del tempo all'interno dell'antico rapporto che intercorreva fra il principe e i suoi consiglieri da una parte e le diverse istanze cetuali dall'altra. Nel momento in cui i ceti si trovarono ad essere inseriti in una struttura sociale che diventava progressivamente meno rigida, furono costretti anch'essi a trasformarsi, a perdere antiche prerogative e insieme ad assumersi nuovi compiti. Come momento saliente di questa trasformazione si cita in genere la Reformzeit in Prussia, ma già la vicenda della promulgazione dell'Allgemeines Landrecht è significativa in questo senso e più ancora, molto di più, credo, lo è tutta la travagliata fase preparatoria del codice. Le caratteristiche della situazione suddescritta andranno infine sempre più accentuandosi lungo tutto l'arco del Vormärz. Ma non solo sul versante cetuale erano intervenute trasformazioni. Sull'altro versante, parlare di principe e consiglieri del principe significa o volgersi enormemente indietro nel tempo o ricorrere ad una schematizzazione non più atta a descrivere le condizioni del tempo. La burocrazia come ceto indipendente è nella prima metà dell'Ottocento un dato di fatto. Semmai si può discutere, e discussione infatti ci fu e molto ampia, sull'entità e i limiti del potere della burocrazia amministrazione di fronte ai poteri del sovrano. Ciò nonostante, ho preferito far ricorso a questa esemplificazione come a un modo per indicare quello che sopra avevo anche definito l'intero, in contrapposizione al particolare, al particolarismo, perché del Beamtenstand Stahl non fa quasi cenno. Quando ne parla lo definisce semplicemente un buon sussidio, vicino al potere del sovrano e al potere dei ceti, e anche di questa circostanza occorrerà tener conto quando si cercherà di valutare il tipo di statualità che le riflessioni di Stahl complessivamente ci presentano. Si è detto anche sopra della cetualità che era andata assumendosi nuovi compiti. Fra questi va annoverato in primo luogo una funzione rappresentativa nuova. Basti pensare al ruolo svolto nella Reformzeit e poi in tutta l'età successiva dai ceti provinciali, dove l'antica rappresentanza e di ordini sociali e di corpi territoriali si era allargata fino a diventare rappresentanza di ampie e definite parti di territorio. Qui c'è qualche cosa che si può lasciare per non essere troppo lunghi. Ecco, comunque quello su cui volevo così attirare l'attenzione era appunto questo problema dell'allargarsi dei confini che delimitavano il principio di rappresentanza e del trasformarsi dei criteri sui quali il principio rappresentativo si basava. All'interno di questa vicenda che si delineerà con tutta chiarezza nel Vormärz del passaggio da una visione verticale, per così dire, a una visione orizzontale dell'organizzazione della società. Per fornire di senso una ricerca che ha fra i suoi punti centrali il concetto di principio monarchico, in ambito tedesco, occorre almeno menzionare la vastità e varietà di voci che a partire dall'ultimo periodo del XVIII secolo si levarono contro il concetto stesso di assolutismo illuminato. Pur tralasciando il ristrettissimo ambiente del radicalismo politico, pur tralasciando le molte voci che però per un periodo molto breve avevano salutato con entusiasmo la notizia della grande rivoluzione in Francia, non si possono non menzionare quanti, con motivazioni diverse e perseguendo finalità diverse, si erano pronunciati contro il principio stesso dell'assolutismo, dalla generazione dei giovani Schelling e Schiller, degli Schlegel e dei Novalis, degli Hegel e degli Humboldt, alla più matura generazione dei riformatori dall'alto. Per non dire di tutto l'arco del pensiero reazionario e o conservatore, da Reberg a Adam Müller, da Haller allo Schlegel maturo. Questo brevissimo excursus, fatto non più che di nomi, ha una sua funzionalità in questo contesto, anche perché serve a sintetizzare quella assai complessa questione che è contenuta entro l'espressione di principio rappresentativo. L'istanza comune avanzata, pur nella diversità delle forme, dai critici dell'assolutismo, era l'istanza della partecipazione, e partecipazione nel periodo storico di cui ci stiamo occupando non poteva che essere intimamente collegata a cetualità. Mentre, per altro verso, partecipazione è in generale collegata con rappresentanza, o se si vuole essere più cauti, con potenziale rappresentatività, e tale si avviava ad essere anche ai tempi di Stahl. Ma le difficoltà interpretative sorgono dal fatto che in realtà, a ben guardare, non c'è alternativa, o più precisamente l'alternativa è contenuta tutta in uno solo dei due corni del problema, giacché già nella nozione di cetualità è espressa la nozione di rappresentanza, e l'alternativa è tutta interna a questa india di cetualità-rappresentanza. Essa, dotata di duplice valenza, finì per avere anche un duplice significato politico concreto, contribuendo per un verso a far vacillare il concetto canonico di sovranità, ma rivelandosi per un altro verso la forma più consona di opposizione al parlamentarismo alla francese. All'interno dell'ampia storia del principio rappresentativo, isoliamo qui uno dei suoi aspetti, quello che vede il concetto di rappresentanza più direttamente legato alla problematica della Verfassung. L'opposizione fra Verfassung e Constitution correva parallela al dibattito circa il tipo e la qualità della rappresentanza che i sovrani tedeschi erano disposti ad ammettere nei loro domini. In questo dibattito, intenzionalmente, veniva fatto giocare un ruolo all'equivoco insito nella pluralità di significati che era plausibile attribuire al termine Stand. Basterà citare alcune tappe significative di questo sviluppo. L'articolo 13 del Deutsche Bundesakte, l'atto nel quale veniva sanzionata la sistemazione dei territori tedeschi stabilita dal Congresso di Vienna, e questo articolo prevedeva la creazione di una Landständische Verfassung in tutti gli stati del Bund e non conteneva alcuna ulteriore determinazione di cosa dovesse intendersi per Landstände, se una moderna rappresentanza popolare oppure una Vertretung come quella che esisteva nell'antico ordinamento cetuale. E poi l'articolo 57 del Wiener Schlussakte, maggio 1820, che viene considerato il luogo della formulazione classica del principio monarchico e nel quale emergono quelli che anche per Stahl saranno i due elementi costitutivi del principio monarchico, la sovranità e la cetualità. Poiché il Bund tedesco consiste di principi sovrani, così recita l'articolo 13, l'intero potere statale deve restare nelle mani del capo dello Stato e il sovrano consentirà, mediante una Landständische Verfassung, la compartecipazione dei ceti soltanto all'esercizio di alcuni diritti. Fra queste due formulazioni si situa idealmente la memoria di Friedrich Gentz, über den Unterschied zwischen den Landständischen und Repräsentativen Verfassungen, che è del 19, tesa a mostrare tout court la coincidenza di significato delle due espressioni Landständische Verfassung e Altständische Verfassung. Se adesso torniamo a guardare alla Prussia, non possiamo che rilevare anche qui il progressivo decadimento, a partire dalla scomparsa dalla scena politica di Hardenberg, dell'idea rappresentativa. E per avvicinarsi all'età dei primi anni del regno di Federico Guglielmo IV, la storia di quest'ultima appare percorsa da tentativi sempre più decisi di restringere la rappresentanza. Il re era tornato a guardare con crescente favore al versante cetuale, nel rifiuto del parlamentarismo, pensiamo all'istituto della monarchia costituzionale ormai consolidatosi in Francia, ma anche dell'onnipotenza burocratica. Il gruppo di intellettuali di cui doveva circondarsi veniva riproponendo un modello di partecipazione che negava i principi della Volksvertretung e senza mediazioni tornava all'antica accezione della nozione di rappresentanza. Stahl, pur appartenendo all'ambiente, mostrerà di voler percorrere una via parzialmente diversa. Pur accettando nel suo senso più pieno il principio monarchico, pur esaltandone i due essenziali elementi costitutivi, egli finirà per tendere fino al limite estremo l'arco dei suoi componenti e farà di questo concetto l'esemplificazione più chiara di una dottrina situata sull'aspro crinale che corre fra Vormärz e Nachmärz. Con il circolo dei conservatori, Stahl condivideva l'avversione per l'assolutismo regio nella sua forma burocratico-amministrativa. Questa avversione sta all'origine della richiesta da lui avanzata di potenziare quella che egli chiamava la ständische Gliederung della società. Questa richiesta ci permette di cogliere bene il senso della distinzione operata da Stahl fra sovranità del re e principio monarchico, il quale ultimo trovava effettiva attuazione solo laddove alla sovranità del re venisse ad affiancarsi la Mitherrschaft degli Stände. L'aspetto caratteristico del ruolo svolto dagli Stände nella società e la ragione che propriamente giustifica tale ruolo è dato dall'elemento morale. Si parlava dell'onore stamattina. Fin dalle prime pagine del saggio sul principio monarchico, ai ceti era stato affidato il compito di esercitare la loro moralische Wirkung sulla società. E il binomio attività morale-cetualità emerge dalle pagine di Stahl come una delle componenti che caratterizzano gli ordinamenti pubblici. Ordinamenti che, si legge in un altro testo poco più tardo, di Stahl, scaturiti dai bisogni della vita e conservati e confermati da una lunga consuetudine di vita, garantiscono diritto, giustizia e libertà. Nel medesimo contesto è situata l'asprissima polemica nei confronti delle carte costituzionali, di quei documenti scritti che, sorti tutti a un tratto, ignorano proprio quell'insieme di tradizioni e consuetudini che creano la vita di un popolo, di quei documenti costituiti da paragrafi casuali, proprio perché artificialmente costruiti a tavolino, di quei documenti doctrinaire, attributo del quale risulta arduo alla traduzione perché probabilmente carico di molti significati fra loro convergenti. Proviamo a tradurlo, uno di questi significati potrebbe essere documenti sorretti da una mera dottrina elaborata sulla base dei morti concetti e dunque non animata dal soffio vivificatore dell'idea, oppure documenti artificiali fatti meccanicamente alla stessa stregua di quello che è avvenuto e avviene in Francia dopo i successi dei dottrinari, i più recenti teorici della forma di monarchia costituzionale combattuta fermamente da Stahl. Nel venire a parlare della forma di monarchia costituzionale teorizzata da Stahl, si incontra un altro dei grossi nodi problematici sui quali è opportuno riflettere qua. Io ho dovuto proprio isolarne alcuni per problemi di tempo. Si tratta cioè, per un verso, di determinare le peculiarità che contraddistinguono questo tipo di monarchia costituzionale, quella teorizzata da Stahl, dalle forme a quel tempo storicamente esistenti, in Francia in primo luogo, ma poi anche in Germania e in Prussia, all'indomani del fallimento della rivoluzione del 48. A questo proposito occorre specificare che il concetto, già da tempo presente nel pensiero di Stahl, venne da Stahl ripreso e ulteriormente approfondito in una serie di articoli e saggi che si situano proprio nel periodo fra la fine del 48 e il giugno del 49. Si tratta, per altro verso, sempre in relazione al problema posto dal concetto di monarchia costituzionale, di chiarire concettualmente il rapporto che nelle riflessioni italiane si viene ad instaurare fra le due nozioni di principio monarchico e monarchia costituzionale. Prendiamo l'avvio dal primo punto, cominciando con il ricordare che lo stesso Stahl aveva programmaticamente enunciato la necessità di trasformare la pura e semplice monarchia, sono le parole dell'autore, in monarchia costituzionale. E perché il compito imposto dai tempi potesse venire assolto, occorreva fra l'altro che si procedesse ad una trasformazione dell'antica posizione dei ceti, in primo luogo il rapporto, questa volta, allo Stato. I ceti avrebbero dovuto diventare Reichsstände, ceti di una monarchia unitaria, e di conseguenza porsi nella nuova condizione di poter rappresentare, invece che interessi singoli, invece che la particolarità di strati o settori isolati della società, la totalità degli appartenenti ad uno Stato, la generalità dei cittadini. Dal punto di vista del governo, avere di fronte questo genere di struttura rappresentativa doveva significare l'obbligo della consultazione dei ceti, sulle modalità, semmai torniamo al momento del dibattito, e doveva soprattutto significare la concezione ai ceti dello Zustimmungsrecht, di quel diritto di approvazione che solo avrebbe permesso loro di conquistare anche sul piano giuridico quell'autorità che essi possedevano in così alto grado a livello morale. Offrire ai ceti la consapevolezza di contare voleva dire innanzitutto instaurare una sorta di equilibrio fra assolutismo e parlamentarismo, equilibrio esemplificato da quella maggiore rappresentatività rispetto al passato ottenuto grazie alla avvenuta trasformazione della posizione dei ceti. Rappresentatività che a sua volta, per la sua costituzione interna, si differenziava nettamente dal sistema rappresentativo proprio di quello che Stahl chiamava il costituzionalismo occidentale, ovvero il parlamentarismo alla francese. A simbolo del suddetto equilibrio assurgeva la significativa formula stahliana della indisgiungibilità di principio rappresentativo e principio cetuale, associata ad un'altra nozione altrettanto centrale nelle riflessioni di Stahl, quella della intima necessità e Gesetzmäßigkeit della istituzione statale, alla quale, a suo parere, occorreva dar vita al più presto. Ed è questo il secondo aspetto, vicino a quello della cetualità, che contraddistingue il principio monarchico. Abbiamo accennato all'esplicito volgersi di Stahl contro il cosiddetto particolarismo e abbiamo sottolineato la sua avversione nei confronti di ogni visione patrimonialistica dello Stato. In questo contesto ricordiamo che la polemica con Haller, pur fattasi più aspra negli scritti successivi agli eventi del 48-49, è costante in tutta la produzione stahliana. Vicino a questo ci paiono significativi i ripetuti riferimenti all'opera di governo svolta da Federico Guglielmo III, e fra essi soprattutto uno, che sembra esemplificare al meglio la complessa situazione di equilibrio che Stahl cercava di teorizzare, quello cioè dove si celebra il defunto sovrano per aver saputo creare una nuova statualità, Staatswesen, caratterizzata anche dalla volontà di tenere in vita lo Ständische Wesen. Quindi, questo riferimento a Federico Guglielmo III e alla creazione di un nuovo Staatswesen ci permette di passare ad un altro momento nodale delle riflessioni di Stahl, e cioè, nonostante si fosse consumato interamente nel pensiero di Stahl il passaggio per i ceti dal Beraten al Mitentscheiden, nonostante la Mitherrschaft dei ceti apparisse come il più efficace antidoto contro l'assolutismo regio, il sovrano restava il primo, restava colui al quale spetta la decisione, diventando la personificazione del centro del potere statale. La volontà che il sovrano, come centro di gravità della Verfassung, esprime è l'elemento che per eccellenza caratterizza il principio monarchico, e il sovrano, come colui che deve stare, cito, il più alto giudice dei contrasti circa l'applicazione della Costituzione, appare come l'unico vero garante degli interessi dell'intero. Non solo, anche dal punto di vista della tutela dei diritti del popolo, un forte potere monarchico, quello appunto di un monarca che deve avere Recht und Macht selbst zu regieren, offre assai maggiori garanzie di quelle che potrebbero venire offerte da un forte potere dei ceti, un potere sempre suscettibile di trasmutarsi in clientela. E qui veniamo ad un altro dei nodi interpretativi che una riflessione su Stahl ci impone di sciogliere, al concetto di Stato di diritto. Il primo dei quattro tratti caratteristici che, a parere di Stahl, contrassegnano il principio monarchico è l'attività legislativa di esclusiva pertinenza del sovrano. A differenza che in Inghilterra, dove al Parlamento spettava non solo la petizione ma anche l'iniziativa di legge, e dove il concetto di legge era stato esteso a dismisura fino a comprendervi anche le ordinanze e tutte le altre misure di carattere amministrativo che viceversa in Germania erano di tradizionale competenza del sovrano, a parere di Stahl unico legislatore doveva essere il sovrano stesso, ma anche della legislazione apparteneva al sovrano, pur fatto salvo il diritto di approvazione da parte dei ceti, trovavo ulteriore conferma nell'enumerazione delle altre caratteristiche che contrassegnavano il principio monarchico. Il potere militare, anch'esso di pertinenza del sovrano, e vicino a questo una monarchia costituzionale, quale quella teorizzata da Stahl, prevedeva l'istituzione del bilancio preventivo. Con ciò, per un rispetto, veniva realizzata quell'amministrazione unitaria delle finanze pubbliche che costituiva un altro degli aspetti essenziali della costruzione di uno Stato unitario, mentre per altro rispetto si induceva una grossa trasformazione dell'antico diritto dei ceti a rifiutare l'approvazione delle imposte fiscali. Tale diritto restava, ma poteva venire esercitato soltanto nei confronti della politica finanziaria complessiva e non sulle singole disposizioni in materia di tassazione. Inutile aggiungere che l'intera finanza pubblica veniva da Stahl definita un tutto indivisibile che era il sovrano a dover in prima persona determinare. Per completare il quadro resta da accennare alla questione della responsabilità dei ministri, ministri responsabili secondo Stahl non nei confronti del Parlamento ma soltanto di fronte al re. Quindi ministri che finivano per diventare meri esecutori della volontà regia. Dunque, quel che abbiamo visto fin qui è la sovranità del re, sovranità in senso forte, dove il potere decisionale ultimo appartiene in tutti i principali settori di gestione dello Stato al sovrano, un sovrano che è la più alta autorità di uno Stato di diritto e di uno Stato che tende a configurarsi sempre di più come uno Stato unitario. Basti pensare appunto all'unificazione in sede legislativa o all'amministrazione unitaria delle finanze. Ma si è anche detto nel contempo della necessità di una Mitherrschaft da parte dei ceti, che tuteli contro il pericolo di una monarchia organizzata, che una monarchia organizzata nei termini suddetti trascolori o in uno Stato meramente assolutistico o in uno Stato nel quale l'assolutismo si esprima nel centralismo burocratico-amministrativo. D'altra parte, la compartecipazione al potere da parte dei ceti ha anche lo scopo di contrapporsi ad ogni sistema parlamentare. L'elemento morale, si è detto ancora, è quello che principalmente caratterizza la funzione svolta dai ceti nella società. Sono palesi le difficoltà che provengono dalla coesistenza nel pensiero di Stahl della nozione di sovranità nel senso forte del termine con la nozione di un potere decisionale che non può non essere assegnato contemporaneamente anche ai ceti. Difficoltà ulteriormente complicate dalla presenza di quell'altro concetto, quello di un Reichsstaat unitario, come supporto di questa concezione della sovranità o se si vuole come cornice nella quale tale concezione si inquadra. Ma c'è di più. Ad un certo punto pare che Stahl abbia inteso gettare un ponte fra questo Stato, si può dire così modernamente organizzato, ma che rischiava di non essere altro che un mero aggregato di funzioni e dunque di rispecchiare in alcuni suoi contorni quello Stato macchina tanto aborrito, e quella zona occupata dalla cettualità che esprimeva moralità in primo luogo e poi anche tradizioni a vite, costumi, consuetudini, insomma quella che a buon diritto può venire definita la sfera dell'eticità. Gettare un ponte, dicevo, ma anche, forse più probabilmente, colmare un vuoto, perché l'ampia polemica condotta contro il pensiero semplicemente conservatore, polemica al meglio esemplificata dal continuo ricorso all'esempio inglese, del quale anche Stahl si continua a servire, ma per dimostrare l'insufficienza ormai di ogni orientamento puramente cetuale, per dimostrare che una diversa nozione di sovranità è indispensabile per costruire un nuovo tipo di Stato, Questa polemica, sviluppata contro il conservatorismo, sta ad indicare, a mio parere, che non era bastevole per definire il principio monarchico, cioè il principio ispiratore di quella nuova forma di governo che avrebbe dovuto reggere le sorti della Prussia e magari della Germania del futuro, semplicemente affiancare alla sovranità del re il principio della cettualità. Voglio dire, anche a vedere di Stahl, i ceti non potevano, forse, assolvere il ruolo di vivificatori del principio monarchico, di forza attraente capace di trasformare in principio monarchico la statualità. Ecco allora l'ultimo passo compiuto da Stahl, la chiusura del cerchio, il ricorso cioè all'antico principio di legittimità. Invece di percorrere fino in fondo la via che in qualche modo gli era stata indicata da un'incipiente nuova visione dello Stato, basti pensare al concetto di Rechtsstaat, Stahl tornava a rivolgersi a quello che egli riteneva il fondamento di ogni forma di governo che potesse fregiarsi del crisma della legalità, cioè il riconoscimento dell'autorità o del monarca o comunque della suprema autorità dello Stato come un'autorità proveniente direttamente da Dio, e l'accettazione sia da parte dei sudditi che da parte del sovrano del principio della sottomissione dell'uomo ad un'autorità più alta, cioè all'autorità divina. Grazie al principio di legittimità, il sovrano, da Träger del Rechtsstaat, il cui potere stava soltanto nella legge e nel diritto, tornava a riacquistare la maestà e la solennità che avevano contraddistinto i sovrani delle antiche monarchie. Ma nel contempo, proprio in virtù di uno dei cardini del principio monarchico, si sottraeva all'obbligo di condividere il potere, come ai tempi dell'antico impero, con i potentati nobiliari. Ed una più moderna strutturazione dei ceti consentiva spazio alle nuove istanze di partecipazione, senza però dover essere costretti ad alcuna apertura nei confronti del già citato sistema parlamentare. Questo, credo, sia il significato di fondo della riflessione staliana e dell'accezione in cui viene qui inteso e accolto il principio monarchico. Si può fermare? Sì, no, questa è una prima sosta. Non ho visto i tempi. No, ma è no, c'è il concetto di Stato cristiano, non so, poi sì, forse per il dibattito è un po' importante. Come la visione staliana faccia perno tutta sul principio della legittimità, che era poi quello che mi interessava capire e chiedere agli altri se avevo ben capito, è mostrato anche dal concetto centrale in Stahl di Stato cristiano. In relazione a ciò occorre anche capire come Stahl abbia trasferito questa dottrina sul piano operativo, come abbia cioè tradotto tale concetto in un modello politico concreto. E qui si può avanzare forse un'analogia. Si è detto prima che lo Stato, in quanto apparato, appare nella visione di Stahl operante intorno a quel centro animatore, a quella fonte di vita che è la sovranità, la quale però, proprio per potersi estrinsecare, ha bisogno di tale apparato e ha bisogno che esso sia al massimo grado efficiente. La differenza fra Stato e sovranità in Stahl può essere descritta, credo, come differenza fra la funzione e la persona. La sovranità è al centro del potere statale, che è articolato nei suoi molteplici organi, ciascuno dei quali svolge in modo autonomo le proprie funzioni, ma sempre restando direttamente collegato a quel centro e soprattutto derivando dal centro, quale potere e autorità supremi, l'autorizzazione ad assolvere quelle funzioni nei modi prestabiliti. Di conseguenza la sovranità non può che essere una indivisibile oltre che personale, e lo Stato diviene più che mai una cornice atta ad inquadrare lo Ansehen del sovrano. Ecco, allo stesso modo in cui sovranità e Stato sono posti fra loro nel tipo di relazione reciproca che abbiamo detto, così lo Stato cristiano, o per scendere sul terreno dell'umano, il regno morale, regno che è possibile realizzare sulla terra e che insieme porta impressa su di sé l'impronta del divino, prende corpo e forma nell'istituto della monarchia costituzionale. Quindi forse si può stabilire questa coppia i concetti sovranità, Stato, regno cristiano, regno morale, Stato cristiano, regno morale e monarchia costituzionale. Prima della rivoluzione, dichiara Stahl riferendosi alle recentissimi avvenimenti del 48, lo Stato cristiano poggiava sulle solide basi della coscienza religiosa e aveva il suo punto di forza nel dominante sano senso politico che in quella coscienza o consapevolezza trovava un fondamento sicuro. Perdutosi questo sano senso politico con la rivoluzione, svanito il senso del divino, cioè la religiosità che animava la compagine sociale, diventa un'esigenza primaria il ripristinare l'antica coscienza religiosa. Il modo del ritorno di questa coscienza religiosa, la possibilità di dare ad essa corpo, trasformandola in uno strumento politico concreto, vengono individuati da Stahl facendo di nuovo ricorso al concetto di legittimità, che si rivela così ancora una volta l'asse portante dell'intero discorso stahliano. Per questa via siamo tornati al problema che ci eravamo posti quasi all'inizio, cioè al rapporto fra il principio monarchico e monarchia costituzionale. Quest'ultimo istituto, per quanto occupi una posizione assolutamente centrale nelle riflessioni di Stahl, è essenzialmente un mezzo, un mero strumento per una riorganizzazione della società e dello Stato che ha come fine esclusivo la restaurazione della sovranità, o meglio, della legittimità. La monarchia doveva tornare, secondo Stahl, a collocarsi sulla vetta delle aspirazioni del popolo, non per un mero calcolo di opportunità politica, ma per la chiara coscienza del vincolo, Gebundenheit, che univa il popolo al re come gli uomini a Dio. A voler riannodare quel vincolo, spezzato da ultimo dalla rivoluzione, ma già da primo offuscato da quella vasta gamma di dottrine che avevano privilegiato l'umano invece che il divino, occorreva far leva su due fulcri, il diritto di veto assoluto da parte del sovrano e il sistema delle due camere. Due fulcri che riproponevano in una nuova sintesi quella bipolarità che per un verso dava vita alla rinnovata forma di monarchia costituzionale di cui si è parlato adesso e che per un altro verso rispecchiava quel binomio sovranità-cettualità su cui era costruito il principio monarchico. Il diritto di veto garantiva una sovranità non vincolata che a se stessa nel momento della decisione. La formazione delle due camere salvaguardava il principio rappresentativo. Un sistema intermedio di rappresentanza, come si è visto, un sistema in cui una Vertretung rifiutava di trasformarsi in Repräsentation, ma non accettava neppure di restare una mera rappresentanza landständisch ed ambiva a diventare la repräsentative Vertretung di tutta una nazione, avendo innalzato, grazie al ricorso al sistema delle due camere, un argine insuperabile contro qualsiasi forma di suffragio a base allargata e avendo insieme non tralasciato un tentativo, per quanto molto modesto, di dar corpo ad una riorganizzazione ormai inevitabile della struttura cettuale della società. Bene, grazie. Sono delle richieste di chiarimento così urgenti. In Stahl, in Deutsch bei Stahl. Ah, so. Questa è colpa della signora Karin Krieg. Wenn ich schon dabei bin. Die Deutsch ist. Sie sagten einmal zur assoluta Prävenenza della volontà del sovrano. Vorstand. Vorstand. Heißt das bei Stahl Vorstand? Vorstand. Danke. Ancora Sosatler? Io vorrei chiedere un chiarimento della Pascale e vi ringrazio per il discorso. Io non ho mai capito come un preussische geheimer Staatsrat che era membro della Camarilla poteva speculare in un senso tanto bizantino e astratto. Cosa hanno fatto nella Camarilla? Non si sono reso conti della società borghese, non si sono reso conti di niente che è acceduto e che è successo in Russia, i movimenti sociali, insomma, come mai che quella speculazione tanto astratta e tanto restaurativa può essere possibile con uno Staatsrat che doveva leggere i documenti sui problemi del governo. Non ho mai capito questo. Ma, Forse si deve dire che il Staatsrat non ha fatto niente. No, non è una domanda facile. C'è chi sostiene che le elucubrazioni di questi personaggi abbiano avuto scarsissima o pressoché nulla efficienza pratica. E questa è una possibile risposta. L'altra risposta però è che probabilmente dietro questo ragionare così astratto, e io ho tentato in qualche modo di farlo vedere, magari se ne può discutere meglio, c'era poi anche qualche atteggiamento concreto, cioè non credo che si trattasse semplicemente di bizantinismi. Ho voluto nella premessa proprio sottolineare sia l'appartenenza alla Camarilla, sia da un punto di vista di collocazione ufficiale, forse ancora più importante, questo lavoro di Stahl alla prima Camera nel 49. Ecco, anche a leggere i discorsi parlamentari, e dei quali io ho tenuto in parte conto facendo questo lavoro, e i saggi che sono contemporanei in parte a questi discorsi parlamentari, credo che in fondo le cose di cui si discutevano, per esempio il problema della rappresentanza e di che tipo di rappresentanza, fossero problemi assai concreti. Cioè in fondo il saggio che io adesso non ho citato, ma sì, che potevo citare, il saggio del 49 sulla Verfassung Deutschlands, in poche parole, ecco, che è una così un'analisi sia del progetto presentato dalla Nationalversammlung, sia di uno dei tanti progetti presentati nel 49. Ecco, è un'analisi molto puntuale e molto un raffronto proprio fra questi due progetti, dai quali si vede che Stahl si pronuncia anche sulle questioni. Ma io credo che, ecco, il ragionare sul principio monarchico, su questa binomio sovranità-cettualità, e soprattutto il problema che non so neppure se ho giustamente posto, cioè sul ruolo di questo concetto, di questo principio di legittimità, che è veramente un retaggio del passato, ma che qui sembra giocare invece un ruolo attivo, cioè in una nuova funzione. Ecco, ho l'impressione che tutte queste cose poi avessero anche una qualche valenza concreta, cioè rispondessero a... Sì, sì. Dunque questo poi verrà nella discussione, ma certamente che questo...